Coniugare due termini così lontani come la metafisica e la carità comporta evidentemente dei grossi rischi. L'obsoleto adagio, l'un Rome consulitur, costituisce un punto di vista abbastanza diffuso e non del tutto ingiustificato di coloro che si occupano della carità nei confronti di quanti si dedicano alla speculazione. Mentre questi riflettono e fanno i convegni su Rosmini, il mondo va a rotoli, si consumano tragedie indicibili, si spargono ovunque lacrime e sangue. Di qui la necessità di rimboccarsi le maniche, di andare là dove urge maggiormente il bisogno, rinunciando a sterili pretese intellettualistiche. E anche da questo punto di vista, che a detta di qualcuno, qualora si potesse, non si dovrebbe più filosofare dopo Auschwitz. I rischi della carità, che si è appiattita su categorie concettuali, si autodistrugge, non sono tuttavia di maggior rilievo di quelli che corre la metafisica al suo cospetto. Il fuoco ardente dell'amore non le procura soltanto delle scottature superficiali, ma rischia di incenerirla, come la paglia delle opere da cui il Tommaso mistico prende le distanze. Qui non si tratta soltanto dell'affogare negli impegni di solidarietà che non lasciano tempo e spazio alla speculazione, ma è lo stesso ardore mistico nel quale si contempla colui che è la carità sussistente a produrre effetti devastanti sulla metafisica. In entrambi le prospettive finiremmo col trovarci tra le mani niente più che un pugno di cenere, con conseguenze ancora più devastanti nella misura in cui in un campo o nell'altro, quello della metafisica o quello della carità, abbiamo impegnato non solo alcune delle nostre risorse o frammenti del nostro tempo, ma la nostra stessa esistenza. Vicino è difficile e afferrare il Dio, ma dove ha luogo il pericolo cresce anche ciò che ti salva. Così Heidegger, citando l'inno che si può considerare il testamento spirituale di Hölderlin. Così noi, con molto meno pretese, ci accingiamo a correre questo enorme rischio col conforto di un documento della Commissione Teologica Internazionale del 1983 che fa propria la formula metafisica della carità nel contesto della riflessione sui rapporti fra teologia, cristologia e antropologia. Il mistero del Dio e dell'uomo si manifesta al mondo come mistero di carità. Sebbene tale visione sottomette a esame critico il desiderio dell'uomo di oggi, tuttavia, scrive il documento, ne afferma l'importanza, lo purifica, lo supera. Al centro di una tale metafisica della carità non si colloca più la sostanza in genere, come nella filosofia antica, ma la persona, di cui la carità è l'atto più perfetto e più idoneo a condurla a perfezione. Quello che per gli estensori del documento sembra piuttosto un auspicio, per alcuni maestri del pensiero cattolico di più o meno grande levatura, come Malebranche, Rosmini, La Bertonnière, Blondel, è stato un compito arduo e rischioso, ma anche ricco di fascino, che spesso ha procurato loro incomprensioni, se non vere e proprie condanne, da parte del Magistero. Oggi l'urgenza di tale compito viene messa ulteriormente in chiaro da Jean-Luc Marion, che nel tanto celebre quanto discusso, frainteso e anche incompreso libro Dio senza essere, scrive: pensare Dio, e scrive la parola Dio con un segno di croce sopra, dunque al di fuori della differenza ontologica, al di fuori della questione dell'essere, anche ovviamente col rischio dell'impensabile, indispensabile ma insuperabile. Quali saranno a questo punto il nome, il concetto, il segno ancora praticabili? Uno solo, non vi sono dubbi, l'amore, quale è proposto da San Giovanni. Dio è agape. Perché l'amore? Perché questo termine, che Heidegger, come tutta la metafisica d'altra parte, anche se in maniera diversa, continua a mantenere in uno stato derivato e secondario, resta ancora paradossalmente impensato, da poter un giorno perlomeno liberare il pensiero di Dio da ogni idolatria. Questo compito immenso, dice Marion, e mai intrapreso fino ad oggi, richiede che si elabori concettualmente l'amore, sino al punto di poterne dispiegare completamente la potenza speculativa. Oggi, qui ed ora, non siamo soli, e non è vero che dobbiamo cominciare tutto da capo. Non possiamo tuttavia svolgere tutti i momenti di una storia della metafisica della carità, né disegnarne tutte le possibili figure. Poiché riteniamo che Rosmini costituisca un capitolo di questa sorprendente e in gran parte inesplorata storia, ci porremo semplicemente al suo seguito, cercando di cogliere in alcuni luoghi significativi della sua immensa opera il rapporto sempre vivo e vitale fra ricerca della verità e metafisica della carità. E se è vero con la Bertonnière che la metafisica è anche uno stato d'animo, l'uomo e il credente ci dovrebbero interessare più che il filosofo e il teologo. Rosmini, fortunatamente per lui e per noi, non era un professore, né di filosofia né di teologia. Il suo pensiero rischia di essere tradito se lo si vuol trasferire forzatamente in orizzonti epistemologici precostituiti e delineati in ambiti accademici che non sono i suoi. Con questo non intendiamo sostenere che il pensiero rosminiano sia connotato da confusione epistemologica. Il roveretano conosce bene i confini dei diversi ambiti del sapere e ha contribuito puntualmente a definirli all'interno del proprio orizzonte speculativo e della cultura del proprio tempo. Il suo pensiero, nel suo sgorgare originario, fa propria una forte connotazione sapienziale, risultando decisamente unitario e in grande sintonia col vissuto umano ed ecclesiale in cui è chiamato ad esprimersi. Ci limiteremo perciò ad offrire una semplice e niente affatto esaustiva ricostruzione critica di testi concernenti la nostra tematica. Il nostro è un lavoro da manovale, non da ingegnere. Per costruire questa casa ci vogliono, come per costruire qualsiasi casa, manovali ed ingegneri, possibilmente molti manovali e pochi ingegneri. Nel caso degli studi rosminiani, un mio piccolo parere è che ci sono troppi ingegneri e pochi manovali. Il punto di partenza è la mappa del percorso. Intraprendiamo un cammino di esplorazione dell'edificio metafisico rosminiano a partire da una lettera che ne costituisce in certo modo l'ingresso e al tempo stesso contiene indicazioni preziose sulle tappe del percorso che seguiremo. Questa mappa la trovate nella sintesi che vi è stata consegnata nel primo foglio. Rosmini qui risponde a Giulio Padulli di Milano, il quale gli aveva posto una serie di quesiti di carattere gnoseologico e metafisico, che questi, cioè Rosmini stesso, non stenta a descrivere come una tela che quando sarà tutta spiegata avrà un'immensa estensione, dichiarando di volersi soffermare nella lettera solo su alcune questioni fondamentali. E qui disegna per l'interlocutore la mappa di un cammino di conoscenza della verità che prevede tre gradi del sapere. Al primo grado, livello, si pone la questione gnoseologica e, tra virgolette naturalmente, ideologica, che ha come punto di partenza l'idealismo dei corpi, che conduce all'idealismo dello spazio e del tempo, e quindi all'idealismo dei principi della ragione per giungere all'idealismo della verità, raggiunto il quale si scopre l'unica forma della ragione, ossia la verità. Fino a questo punto siamo ancora nella metafisica comune, ma da questo punto si ha in mano la chiave per procedere oltre, verso la terribile questione dell'essenza delle cose, ossia verso la metafisica sublime, dove la scienza prende un corso nuovo e non è un viaggio per tutti. Approdiamo così al secondo grado, livello del sapere. Qui si affronta la questione dei due modi di esistere delle cose, nella quale, quando si è venuti, si prova uno stupore, un gaudio intellettuale incredibile. Attenzione però, aggiunge Roveretano, non bisogna confondere questo momento in cui si tratta delle essenze con quello in cui si è parlato delle idee astratte. Esse non vanno identificate con le essenze, ma costituiscono una via per la loro conoscenza. La questione dei due modi di esistere delle cose ci porta al terzo grado del sapere, dove si incontra addirittura la questione della natura di Dio, nella quale, come in una luce inaccessibile, la mente umana si immerge e si smarrisce. Il terzo grado del sapere del metafisico è per Rosmini la dotta ignoranza, un sapere concetturale che in quanto tale non ha alcuna pretesa di esaurire il mistero che contempla ed adora. Viene in mente a questo proposito un famoso luogo della teosofia dove si parla del rapporto fra le tre forme dell'essere e le tre persone della Trinità, sul quale ritorneremo. La metafisica sublime, terzo grado del sapere metafisico, riservata soltanto ai veri adepti, fa sì che verso la fine della lettera Rosmini quasi si identifichi con Platone, rilevando delle forti affinità fra il pensiero del filosofo greco, altrove definito in un impeto di giovanile entusiasmo divino, ha scritto nel giorno di solitudine, subito ha cancellato, scrivendo quel grande uomo, e il proprio modo di intendere la conoscenza metafisica. Anch'egli, cioè Platone, scrive Doveretano, riserva la questione delle essenze ai suoi adepti, ai suoi discepoli più segreti, come quella che appartiene a una scienza più sublime. Io ho fatto osservazione, aggiunge, che quando Platone passa dal discorso delle idee astratte a parlare delle essenze delle cose, cambia anche tono e stile. Fino che parla delle idee astratte, ragiona come un uomo che ricerca la verità. Ma quando tocca delle essenze, allora narra come un sacerdote, parla una scienza tradizionale che dice di aver imparata da uomini sacri e da donne ispirate. La lettera che documenta l'evoluzione del pensiero rosminiano, mentre da un lato esprime con chiarezza l'insoddisfazione verso soluzioni meramente formali e idealistiche del problema gnoseologico, da cui la necessità di un suo superamento nei passaggi ulteriori, non manca di un'indicazione significativa quando definisce la questione delle essenze come frutto di un sapere tradizionale, ossia non propriamente inventato dal soggetto pensante, ma a lui consegnato nell'ambito di un percorso storico di cui fa parte come anello di una catena che non si deve spezzare. Il grembo tradizionalista da cui, come giustamente ha notato il Malusa, si ripartono sia il pensiero rosminiano che quello neotomista del secolo scorso, non è soltanto un momento fondamentale per lo studio della genesi della filosofia di Rosmini, ma resta fecondo di indicazioni e di contenuti anche per lo studio del Rosmini maturo. Allora, eccoci al primo passo del nostro cammino con Rosmini: la ricerca della verità e il suo rapporto con l'Evangelo. Rodare al vero grazie a questa prima forma oggettivamente presente nella mente. L'itinerario verso questo primo livello del sapere è contenuto prevalentemente nel nuovo saggio sull'origine delle idee che Rosmini dedica appunto alla questione ideologica, ossia gnoseologica. Il carattere formale di questa ricerca non impedisce tuttavia che nel suo sviluppo essa venga messa in rapporto alla rivelazione cristiana e alle sue esigenze. Così, neppure nell'ambito di un lavoro come questo, ci troviamo di fronte all'esercizio di un filosofare avulso o separato dal credere. La verità che l'intelligenza cerca è la stessa verità del Vangelo, è la stessa verità che il Vangelo ha portato nel mondo. Già nella prefazione al nuovo saggio si intravedono dei passaggi fondamentali come questo: unico dunque il principio del cristianesimo, la verità pure è il principio della filosofia. Ho trattato già altrove di queste cose, quindi non mi soffermo molto su questo primo momento della conoscenza, che è il momento della scoperta dell'idea dell'essere. Verità e carità, guardando a ritroso, il Rosmini recupera questo primo momento all'interno di una prospettiva più ampia. E a questo punto, come lo scritto degli studi dell'autore, che è stato abbondantemente citato in questa sede, verità e carità risultano inseparabili nella divina sapienza che ci fa discepoli di Dio stesso. Se il primo termine esprime Dio nella persona del Verbo, la nuova parola carità esprime il medesimo Dio nella persona dello Spirito. I testi giovannei offrono abbondante materia di riflessione a riguardo e Rosmini vi si appoggia costantemente. Sono dunque due le parole in cui si compendia la scuola di Dio, reso maestro degli uomini, verità e carità. E queste due parole significano cose diverse, ma ciascuna comprende l'altra, in ciascuna il tutto. Ma nella verità è la carità come un'altra, e nella carità è la verità come un'altra. Se ciascuna non avesse seco l'altra, non sarebbe più se stessa. L'alterità reciproca di verità e carità dice l'alterità delle divine persone, Verbo e Spirito Santo. L'opera della sapienza non consiste che nella carità esercitata nella verità e viceversa, perché l'uomo si faccia discepolo del maestro divino interiore di cui ci ha parlato ieri Padre Tillet. Secondo grado del sapere. le tre forme dell'essere, ovvero l'essenza delle cose. La questione della verità, posta in termini gnoseologici, costituisce un momento fondamentale del percorso speculativo che dalla sua soluzione non può prescindere. Tuttavia, in relazione all'orizzonte sapienziale entro cui tale itinerario si situa, mostra anche la propria inadeguatezza e provvisorietà. Il primo grado del sapere esige di essere superato nei momenti successivi, tanto più che già prima di elaborare la propria gnoseologia, come ebbe a sottolineare Gioele Solari, il Rosmini non si sentiva pago della dottrina della forma della verità. Una nuova crisi filosofica si preparava con riflessi nell'ordine politico e religioso. Si andava ormai convincendo il Rosmini che la dottrina della forma della verità rientrava in quella metafisica del senso comune, in quell'idealismo dei principi della ragione che Kant aveva percorso e conchiuso. Poiché, se tale dottrina poteva risolvere il problema dell'idea astratta, intellettiva, della verità e della giustizia, non risolveva il problema più alto e decisivo dell'essenza oggettiva del giusto. Ormai Rosmini tendeva a passare dalla forma all'essenza della verità. A proposito della svolta che caratterizza il passaggio dal primo momento del sapere metafisico al secondo, consentendosi l'ingresso nella seconda stanza dell'edificio speculativo rosminiano, Italo Mancini ha parlato di riscossa dell'essere ideale nei confronti dell'essere ideale, ipotizzando un effettivo processo di maturazione e di superamento che avrebbe come punto di partenza il nuovo saggio, come punto di approdo la teosofia. L'interpretazione del giovane Mancini ci sembra accettabile e discutibile nello stesso tempo. Accettabile nella misura in cui registra quell'insoddisfazione rilevata dal Solari verso soluzioni formali dei problemi speculativi. Discutibile in quanto la vera e propria scoperta che costituisce una svolta significativa all'interno dell'itinerario rosminiano non è tanto quella concernente la dimensione reale dell'essere, pure importante e costitutiva, bensì la scoperta dell'essere morale e del suo ruolo centrale di orientamento nei confronti delle altre due forme, ideale e reale. E si tratta di una vera e propria scoperta, in quanto il Roveretano stesso, nel disegnare la mappa del suo percorso, nella lettera che abbiamo citato all'inizio, aveva parlato di due modi di esistere delle cose, e non è difficile interpretare questa duplice modalità, anche alla luce del nuovo saggio, nella direzione dell'ideale e del reale. Comunque ciò che conta ai fini della nostra trattazione è che nel secondo grado del sapere metafisico si situa la dottrina delle tre forme dell'essere e inoltre che fra le tre forme quella morale svolge un ruolo di polarizzazione e di catalizzazione delle altre due. Quello che noi qui vogliamo chiamare primato dell'essere morale ci offre spunti di riflessione notevoli relativamente all'originalità del pensiero rosminiano, e inoltre ci consente di costruire un ponte fra carità e metafisica e di parlare, appunto, in questa sede, di metafisica della carità. Inoltre, riteniamo che soprattutto attraverso l'elaborazione della dimensione morale dell'essere si possa costruire un fecondo rapporto fra sapere filosofico e intelligenza della fede. L'essere morale è il luogo privilegiato in cui questo incontro diventa fecondo e da cui riceve senso. Infine, affermare il primato della forma morale dell'essere non significa sminuire la portata delle altre due, al contrario, potenziarla e gettare davvero nuova luce sull'intero orizzonte speculativo. L'apparente contraddittorietà di questa posizione indica il carattere misterico dell'essere che il secondo grado del sapere metafisico cerca di riconoscere. Né l'aporia deriva dalla nostra interpretazione, bensì dalle modalità stesse secondo le quali si esprime il pensiero di Rosmini. Accanto a testi in cui è chiaramente dichiarata l'uguale dignità delle tre forme dell'essere, ve ne sono altri in cui si descrive l'essere morale come avente un ruolo guida nei confronti delle altre forme. Un frammento autografo ritrovato durante i precedenti studi sulla Teodicea, che porta appunto in alto a destra questo titolo, Teodicea, recita semplicemente e drasticamente: il morale trae seco l'intellettuale e il fisico. L'aforisma risulterebbe scarsamente significativo se non esprimesse in un'efficace sintesi tutto il senso della fondamentale opera rosminiana, e non è un caso se questo lavoro sia dal Roveretano stesso posto ai confini fra teologia e filosofia. In che senso allora le tre forme dell'essere sono da considerarsi equivalenti? In primo luogo perché esse risultano in pari maniera costitutive dell'essere, ma anche per il fatto che la metafisica rosminiana intende escludere ogni dualismo che avrebbe pericolose ricadute, per esempio, a livello antropologico. Da questo punto di vista, lo studio dell'antropologia rosminiana risulta decisivo per poter comprendere da un lato il rapporto delle tre forme dell'essere tra loro e dall'altro il ruolo guida dell'essere morale. La metafisica dell'essenza, infatti, non sarà rivolta alla speculazione intorno all'ente inanimato, bensì in primo luogo all'uomo stesso, che porta in sé la domanda metafisica e trova in sé una risposta, sia pur inadeguata e parziale, a questo interrogativo. Il senso delle cose, della natura e della storia può essere indagato solo a partire dalla domanda sull'uomo e sul suo destino. È nella persona umana, infatti, che le tre forme dell'essere convivono e celebrano il loro incontro. Non sempre tale convivenza è pacifica e armonica, la realtà storica comporta la legge dell'antagonismo che trova interessanti riscontri anche a livello cosmologico. Un lungo frammento riportato in calce all'edizione critica della Teodicea rivela come nella mente del Rosmini il terzo e decisivo libro di questo capolavoro, Iuper Physikos, intitolato, avrebbe dovuto sviluppare il discorso sul senso della storia a partire dal principio di ragion sufficiente di Leibniz, che il Rosmini denomina e ripensa come legge del minimo mezzo. La scoperta delle tre forme dell'essere imprime una direzione del tutto diversa a tutto l'itinerario. Attraverso il ricorso a tale orizzonte, il roveretano reinterpreta la storia nel tentativo di coglierne il senso nascosto sotto il velo del male e della sofferenza innocente. La dottrina delle tre forme costituisce tuttavia un'impalcatura concettuale che risulterà efficace solo nella prospettiva teologica e cristologica che l'opera adotta, almeno a partire da quel luogo famoso in cui il filosofo alza le mani, dichiarandosi impotente ad offrire una qualsiasi plausibile spiegazione del mistero della storia solo nell'ordine soprannaturale. La questione può trovare, e di fatto trova, la sua soluzione, se risoluzione si può parlare. L'ontologia triadica, che ha le sue radici nella rivelazione, anche se non esaurisce in pieno la ricchezza dei contenuti, è un aiuto a descrivere in parole umane e filosofiche il terribile mistero su cui si sta meditando, il mistero del senso della storia. La necessità di questo salto nel soprannaturale risulta con chiarezza da un altro frammento di Teodicea conservato nella stessa teca del precedente e che contribuisce ulteriormente a far cadere quel punto interrogativo sul titolo del libro di cui si parlava ieri sera. In questo frammento scrive il roveretano di suo pugno: l'umano intelletto soggetto al cuore, quindi il bisogno della rivelazione. È ancora più evidente la necessità di questo passaggio nelle annotazioni, anch'esse autografe, attraverso le quali Rosmini commenta e sottolinea alcuni passaggi dell'opuscolo kantiano del 1791 sull'impossibilità di qualsiasi tentativo filosofico di Teodicea. In una di queste note egli fa rilevare come, mentre nel discorso kantiano la sapienza della natura viene separata dalla sapienza morale, nelle scritture invece le due sapienze formano una profonda unità. È anche in questo senso che va interpretato l'esclamazione «vorago horribilis», sfuggita alla penna del Rosmini sul frontespizio dell'edizione latina delle opere di Kant che lui utilizzava. Il superamento di questa voragine è possibile solo a partire dalla prospettiva soprannaturale. La dottrina delle tre forme dell'essere e il loro sintesismo, momento culmine della filosofia cristiana, costituisce una sorta di ponte di corde aggrappandosi al quale, non senza rischi, si può cercare di superare l'orrendo fossato. Le aporie ci fanno sobbalzare e mettono a dura prova il nostro coraggio speculativo, stimolato tuttavia solo dalla necessità di raggiungere la meta. Non abbiamo di fronte né il pericoloso salto nel buio della fede cieca, né il comodo ponte di una ragione rassicurante e paga delle sue certezze, ma appunto il faticoso arrampicarsi sulle funi della metafisica credente in un tentativo di teodicea che non si nasconde o scacco degli sforzi della pura ragione di spiegare il senso della storia. In che senso si può parlare di primato dell'essere morale? Senza l'ideale reale, nel pure il morale ha un senso, eppure esso è capace di catalizzare e polarizzare le altre due forme dell'essere. Tutto ciò che è o è persona o va finalizzato alla persona. Nella persona si realizza la compresenza delle tre forme dell'essere, ma la persona si costituisce secondo il proprio fine nell'esercizio della moralità, ossia della libertà orientata verso il bene. Qui si inserisce la tematica della carità in un discorso antropologico, metafisico e teologico, tutto orientato verso la persona. Non si dà persona senza le tre forme dell'essere, ecco l'equivalenza, ma la persona si realizza attraverso scelte morali orientate al bene oggettivo, ecco il primato. la volontà libera, il vertice della persona, il punto di Archimede su cui fa leva tutta l'antropologia, la scelta agapica, nella misura in cui celebra l'incontro con la scelta fondamentale di Cristo e della sua proesistenza, sia in rapporto al Padre che in rapporto a noi, compie la persona secondo l'autentico progetto cui è finalizzata. Non mi soffermo ulteriormente su altri contenuti della Teodicea, anche perché c'è stata la relazione del professor Piazza ieri che alcuni contenuti ce li ha, in certo senso, proposti, interpretati e anticipati. E vengo al terzo momento della nostra riflessione, spero anche della nostra meditazione su questo percorso, che ho intitolato il terzo grado del sapere metafisico, la dotta ignoranza. Arriviamo così nella stanza più importante e preziosa dell'edificio speculativo, quella in cui ci troviamo di fronte all'insolubile questione della natura di Dio. Qui la nostra intelligenza viene raggiunta dalla luce abbagliante della rivelazione. È solo grazie a questo lume soprannaturale che si può tentare di dire qualcosa di sensato sull'essenza divina. La filosofia raccoglie qualche scintilla di questo fuoco che riscalda e illumina nel momento in cui si affatica intorno alla dottrina delle tre forme dell'essere, all'antropologia triadica, al sintesismo, al problema etico. Barlumi, capaci di illuminare l'intelligenza quanto basta per potersi in qualche modo orientare nel cosmo e nella storia. Ma se si vuol cogliere il senso profondo e nascosto dell'essere, bisogna che la mente umana lasci spazio alla rivelazione di Dio stesso. L'intreccio tra il sapere della ragione e della filosofia e quello della fede e della teologia, nel loro reciproco rincorrersi e richiamarsi, viene dal Roveretano denominato, con termine oscuro e insieme ricco di fascino, sapere teosofico, la cui cristallizzazione è consegnata nella grande opera che ne porta appunto il nome, Teosofia. Qui non abbiamo remore ad osare l'affermazione secondo cui, senza riferimento a quest'opera, mancherebbe la chiave ermeneutica più importante per un'adeguata comprensione non solo della filosofia, ma anche della teologia rosminiana. La stessa formula metafisica della carità rischierebbe di essere fraintesa o ricondotta su binari impropri se a sostenerla non vi fossero pagine e pagine di questo enorme frammento in cui è consegnata la lezione del Rosmini maturo. Siamo tuttavia consapevoli sia del carattere appunto frammentario, ossia non compiuto, del testo, sia del fatto che esso fa parte delle opere postume ed in quanto tale necessita di grande cautela da parte di chi ha la pretesa di interpretarlo. Ieri il professor Ricardona parlava della necessità di un'edizione che sia veramente critica di quest'opera rosminiana, e veramente critica nel senso che non basta scrivere edizione critica perché un'edizione sia critica. Tale fondamento che Rosmini chiama misterioso è il dogma trinitario, il fondamento dell'edificio speculativo, con tutta la sua pregnanza teologica e filosofica. Dopo aver chiarito il rapporto analogico, quindi non di identità, fra le tre forme dell'essere in relazione al mistero trinitario, il Roveretano non si fa scrupolo di affermare che questo mistero, il mistero della Trinità, non solo può, non è un optional, ma deve essere ricevuto, ossia riconosciuto ed accolto dalla filosofia. Né egli si sottrae alla domanda relativa alla possibilità di una confusione fra i due ambiti del sapere, la ragione autonoma, l'intelligenza della fede, la teologia, la filosofia. È indispensabile, scrive, che fin da adesso giustifichiamo questo nostro sdruscire con le nostre ricerche intorno all'essere nella sfera teologica ed anzi toccarne le cime, il che ad alcuni potrebbe parere contrario al metodo filosofico, al quale è prescritto camminare sempre per una via di raziocinio, senza che nulla possa in questa sfera l'autorità, se non fosse per accidente, cioè per confermare con essa e rendere più persuasiva la rettitudine dello stesso raziocinio, vedendolo formato ugualmente da più menti o da più menti confermatone il risultato. Ora non è punto introdurre nella scienza filosofica l'autorità della rivelazione, quando non ci serviamo del peso di questa per dimostrare le proposizioni che dimostriamo. Il discorso, dunque, sarà fondato sulla rivelazione quanto al suo punto di partenza, mentre si avvarrà della ragione e non di argomenti di autorità nel suo procedimento. I suoi risultati, poi, perverranno a una, udite udite, dimostrazione filosofica della Trinità, che per i teologi può sembrare appunto aberrante, che sarà necessariamente però, e qui riprendiamo fiato, indiretta, come indirette sono le dimostrazioni che i matematici conducono dall'assurdo, ma non sono meno efficaci per questo. E secondo, deontologica, perché dimostra non che la cosa sia così, ma che deva essere così. E questo modo pure, se in regola, dà certezze irrefragabili. Questo è Rosmini. La rivelazione dell'essenza di Dio come uno e trino ha dunque una ricaduta filosofica di enorme portata. Rosmini, ad esempio, accenna alla mirabile soluzione del problema dell'uno e del molteplice che il cristianesimo propone. Il mistero dell'amore trinitario non può lasciare indifferente il filosofo, al quale anche convengono quelle nobilissime e verissime parole che diceva Gregorio della Triade Augustissima: «Mi sforzo di comprendere l'unità, e già i raggi ternari splendono intorno a me. Tento di distinguerli e già mi hanno ricacciato nell'unità». Questo sublime mistero, continua il Roveretano, è il profondo e immobile fondamento su cui si possa innalzare l'edificio non solo della dottrina soprannaturale, ma anche della teosofia razionale, ond'è veramente tes Christianon efore teosofias, come fu chiamato da un padre della Chiesa, dal che, essendo dimostrato che ne avrà questa conseguenza importante, che alla divina rivelazione la stessa filosofia dovrà la sua perfezione, l'incongussa sua base e il suo inarrivabile fastidio. Giustamente Roveretano cita in greco il famoso testo dello Pseudo Dionigi, dato che anche qualche recente traduzione italiana preferisce rifugiarsi nella più rassicurante sapienza divina, rinunciando all'esoterismo che la parola teosofia potrebbe contenere. Già Piero Coda ieri ha posto in rilievo l'importanza della tematica trinitaria nel pensiero rosminiano e ci ha mostrato alcuni suoi punti nevralgici in ordine anche alla sistematica trinitaria contemporanea. Qui mi limito a richiamare, e se la tecnica ci aiuta facciamo pure un po' di sceneggiata, la catena dei 12 anelli che il Rosmini propone nei paragrafi 1402-1403 della Teosofia. Non ho il tempo di spiegare punto per punto questa catena, che come vedete si sviluppa anche in una sorta di forma di serpente, e mi limito soltanto ad annotare che questo potrebbe sembrare uno schema, una specie di schema troppo astratto, uno schema nel quale il mistero viene imbrigliato, se non fosse che quelle frecce che nella mia trascrizione della catena ho voluto indicare come momenti di passaggio tra i diversi momenti, sono di fatto le frecce del dare, dell'amore agapico. E dunque quello che intendevo annotare intorno a questa catena è che c'è un grembo trinitario del tutto. Lo vediamo questo grembo nella prima riga, il principio, il verbo e lo Spirito Santo, lo ritroviamo nell'ultima che va letta a ritroso, operazione dello Spirito Santo per la quale si incarna il verbo che rivela il Padre. Un grembo trinitario infinito e soprannaturale entro il quale vive e si muove l'universo finito e l'uomo. Sembrerebbe uno schema arido, concettuoso. La magica catena è quasi un talismano che congiunge l'eterno, il tempo, l'infinito e il finito, va letta e interpretata alla luce dei luoghi della teosofia in cui Rosmini parla dell'essere come vita e sentimento. Nel sentimento consiste l'essenza stessa della vita, l'essere infinito è vita e beatitudine somma, in quanto tale è amore. Qui la filosofia e la teologia ricorrono alla poesia nel tentativo di balbettare qualcosa di questo inesprimibile amore che è Dio e che da Dio si diffonde su tutto ciò che esiste. Il Petrarca è il poeta che il Roveretano chiama in causa nelle pagine proprio della Teosofia che riguardano il nostro discorso. E citando i versi del più gentile dei poeti, come lo chiama lui, che pure aveva cercato in qualche modo di imitarlo proprio nel giorno di solitudine, componendo anche dei versi di discutibilissimo valore letterario, e richiamando il più gentile dei poeti, richiama il conato dell'amore infinito e imperfetto di raggiungere una piena intimità e comunione con l'amato. Talor marsale in mezzo ai tristi pianti un dubbio, come possan queste membra dallo spirito lor viver lontani? Ma rispondemi, amor, non ti rimembra che questo è privilegio degli amanti sciolti da tutte qualità umane, e questo conato proprio della natura dell'amore, per il quale l'amante tende a uscire spiritualmente, a dividersi da sé, per divenire e identificarsi all'amato, in un essere infinito, in cui anche l'amore è a concepirsi perfettissimo, non può mai essere imperfetto, ma deve sempre ottenere il suo effetto. Tralascio altri testi e tramite la metafora della catena raggiungo l'altra catena, quella spirituale, la catena d'oro, che non c'entra niente con la catena delle ricchezze, San Paolo, e che costituisce l'apice dell'insegnamento spirituale nella quale il discorso della carità svolge un ruolo decisivo. Il discorso della carità si trova nelle operette spirituali, nell'edizione critica curata dal padre Valle. Qui Rosmini, come il Platone della lettera, si esprime non più da filosofo, da teologo, ma da sacerdote, e attinge il proprio sapere non alla scuola dei libri, ma a quella dell'esperienza e dell'orazione. In un passaggio che fa venire in mente un famoso luogo scellinghiano riferito all'inizio del filosofare, avverte i discepoli, e destinatari sono i religiosi dell'Istituto della Carità, della necessità di spogliarsi di tutto per raggiungere il vertice della perfezione, che è la carità. Nucleo portante di queste pagine, di fronte al quale l'uomo e il credente non può fare a meno di stupirsi, è la carità sussistente in noi, che Rosmini chiama anche carità immanente, un mistero profondo che contiene e parte appalesa, parte nasconde la carità. L'amore nell'uomo e la vita eterna nell'uomo. Quest'atto non finisce in sé, ma eccede, perché dimora nella carità stessa, dimora in Dio, dimora in Cristo. Abbiamo una sorta di trasposizione in chiave agapica della metafisica trascendentale. Non possiamo in questa serie addentrarci né nello studio delle costituzioni dell'Istituto della Carità, che offrirebbero abbondantissimo materiale di studio su questo argomento, e ne possiamo aprire un capitolo sulle tre forme della carità che il Roveretano ha inteso porre a fondamento di tutto l'impianto spirituale dell'istituto che ha fondato. Rispecchiano le tre forme dell'essere. All'essere reale corrisponde la carità temporale, all'essere ideale la carità intellettuale, all'essere morale la carità spirituale. Se l'essere ha a che fare con la carità e viceversa, questa, nel suo esercizio concreto e quotidiano, non può non ispirarsi alla triadicità delle forme dell'essere, esprimendo attraverso tale fondamentale riferimento la propria origine trinitaria e il proprio radicamento nel Dio uno e trino. La forma intellettuale della carità svolge un importante ruolo di mediazione fra il pensiero e il vissuto, fra la carità oggetto di speculazione teosofica e l'esercizio di essa nella concretezza dell'esistenza, così anche il nostro lavoro di intellettuali nella Chiesa e nella società viene recuperato e compreso nell'orizzonte agapico della sequela e del servizio, se la cosa può servire a consolarci. Per concludere, giungiamo al termine di questo breve viaggio nel percorso spirituale e speculativo rosminiano. Molte cose le potrete probabilmente leggere, se si farà, nella pubblicazione degli atti. Abbiamo tentato di porre in rilievo non solo la presenza, ma la rilevanza della tematica della carità all'interno di ciascuna delle tre tappe attraverso cui abbiamo esplorato il pensiero del Rosmini. Così a livello gnoseologico è risultato decisivo il rapporto fra carità e verità, che Roveretano stesso ha indicato come caratterizzante l'orizzonte sapienziale cristiano. A livello antropologico e ontologico, quello che abbiamo chiamato il primato dell'essere morale fa da cerniera fra la forma filosofica e quella teologica del sapere, e consente di congedare definitivamente ogni ermeneutica neoidealistica del Rosmini. Infine, sul piano della teologia filosofica, il modo attraverso cui il nostro parla del Dio Agape consente il superamento di ogni atteggiamento idolatrico e strumentale, aprendo alla possibilità di pensare il Dio di Gesù Cristo non senza l'essere, ma oltre l'essere. Sono solo i primi passi di un lavoro di manovalanza storico-critica ed ermeneutica per il quale vale la pena impiegare ancora delle energie. In questa sede abbiamo potuto solo offrire qualche spunto di riflessione su una tematica nella quale c'è ancora molto da scoprire, non solo in Rosmini, che abbiamo interpellato come uomo di pensiero e uomo di chiesa, nel tentativo di mostrare come la ricerca della verità e l'esercizio della carità, anche nella sua dimensione intellettuale e metafisica, non necessariamente producano un cortocircuito speculativo o pratico, a condizione che ogni momento di questa sua e nostra fatica venga sostenuto da una profonda e autentica spiritualità. È il grande merito del Roveretano aver tentato di dispiegare la potenza speculativa dell'amore, senza con questo far torto all'essere, anzi, potenziandone il senso e la valenza, un compito che il pensiero credente deve comunque tentare e che nel nostro tempo sembra particolarmente urgente. Antonio Rosmini lo ha svolto egregiamente nel suo secolo, noi siamo chiamati ad eseguirlo nel nostro. Ci auguriamo che questi primi passi possano stimolare ulteriori lavori per approfondire singoli aspetti di una prospettiva feconda e insieme rischiosa. Il nostro approccio critico testuale al pensiero di Rosmini è evidentemente insufficiente e limitato. Del resto, il fatto che ci dedichiamo per anni a penetrare i trattati e gli scritti dei grandi pensatori non è ancora una garanzia che pensiamo e che siamo almeno preparati a imparare a pensare. Grazie. Lorizio ha ridipinto il grande affresco rosminiano. Non so se lasciando ad altri il compito di scoccare la freccia o le frecce per il bersaglio, cosa che potrebbe accadere nella discussione, ma certo in qualche misura soffrendo la difficoltà della trasmissione del nesso difficile verità-carità attraverso il nesso, il plesso unitario di ricerca metafisica, che è un problema veramente grave in Rosmini per la poliedricità e anche per la ricchezza delle sue prospettive ascetiche, mistiche, speculative, letterarie, poetiche, scritturistiche, sapienziali, in una parola. E questo certamente in qualche misura delimita il discorso. Certo, io penso che in questo caso forse soccorre una memoria mistica come quella che possiamo sottrarre alle pagine dei colloqui di una mistica del Cinquecento, la quale scrive a un certo punto che la verità crea nudità. È una frase icastica nella misura estrema del discorso che confligge e crocifigge anche la verità. La verità che crea nudità. Io per parte mia, forse per mestiere fazioso di filosofia o di altro, o di qualche cosa simile a questo, intendo e leggo la nudità come radicatezza del concetto. Certamente a sproposito, ed è uno sproposito che ritengo potrebbe essere fecondo, non per tradire la pagina mistica, ma per ricondurla alle sue impervietà che sono sottratte e sono escluse per chi mistico non è, né riesce ad essere. Tanto più perché si tratta di ricondurre il discorso rosminiano, appunto, come sempre, ai suoi punti nevralgici. In questo caso il gioco formale dell'essere, proprio il gioco formale nel suo senso però rosminiano, non nel senso retorico, nel senso sostanzialmente speculativo. Il gioco formale dell'essere che Rosmini in una pagina del libro terzo, mi pare di ricordare al 1185 paragrafo, delucida brevissimamente però ricorrendo un po' a San Tommaso, citandolo in nota. La questione settima della prima parte della Summa Teologica, quando si costringe alla aporia dell'infinito e della perfezione rispetto alla forma. Per cui si ha il caso, che non è poi paradossale, ma è veramente qui speculativo come possibilità di continuare a pensare o di cominciare a pensare. Si dà il caso che la forma sia nello stesso tempo non perfezionata dalla materia e però da questa limitata. È un nuovo che io ritengo emblematico del dialettismo profondo di Rosmini, poco conosciuto, perché non è il dialettismo esplicito di Hegel, non è non è il Werden hegeliano che si butta nel rischio in maniera esplicita e nasconde poi il vero problema. Certo, non è neanche la rastremazione assoluta che Hegel fa, forse su questo tema, quando chiude la logica con l'ursprüngliche Wort, con la parola originaria, con l'assolutezza della parola originaria che nel suo senso doveva concludere e chiudere il cerchio del sapere assoluto. Mentre con Rosmini questa prospettiva rimane continuamente aperta e direi anche fecondamente aperta, perché permette, ripeto, se non di continuare a pensare, forse di cominciare a pensare. Anche perché su questo piano il fatto della verità, della carità, nel nesso difficile da colpire, proprio nel nesso difficile da colpire, non come bersaglio, ma come individuazione del bersaglio, attraverso il quale poi rifare filosofia senza per questo cadere nell'ascesi, rivivere l'ascesi senza per questo intellettualizzarla in filosofia, rimane il problema che forse i rosministi abbiamo ancora non da risolvere, ma addirittura da porre e da riproporre. Per cui io penso che forse sarebbe il caso a questo punto di ridurci un po' socraticamente nei limiti dei discorsi, che non so se riusciamo non a tentare oltre il limite speculativo, per cui forse può soccorrerci il consiglio socratico che chiude il teto: cerchiamo almeno di usare il logos, la ragione, come diaferotetos ermeneia, appena come interpretazione dei differenti, vero, e i differenti di cui faceva esempio Socrate in quel caso astutamente, era il naso rincagnato. Noi forse oggi abbiamo modelli un po' più diffusi, un po' più estesi, di differenze possibili che rimangono appena i diversi possibili dei quali riusciamo a far discorso. Ma dico, se almeno riuscissimo nel logos, come ermeneia di Aferotetos, con buona pace degli ermeneutici di tutte le scuole, di tutti i nepotismi e così via, qualche cosa cominceremmo a fare.